Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Anche le parole hanno una loro stagionalità. Appena la primavera decolle, si intravede l'estate, corre veloce di bocca in bocca una parola, anzi due: ritenzione idrica. Tormentone al tempo stesso, straordinaria giustificazione, ma che cos'è? Cosa posso fare per capire se questo è il mio problema? Ci sentiamo gonfi, a volte non è solo una sensazione, perché alla sera iniziamo ad avere le caviglie gonfie o si fa fatica a chiudere la gonna, anche se l'ago della bilancia sembra non essersi spostato, e poi le cosce, ma lì è tutto un problema di donne. E così presi una grande decisione. Decisi di riprendere in mano la mia vita e cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero uno. Oh, ovviamente perdere 10 kg. Che diavolo fai? Sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Allora, andiamo per ordine. Intanto qui con me in studio è tornato il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Quindi tenetevi pronti, perché la relazione tra voi e la ritenzione idrica è destinata a cambiare. Buongiorno dottore. Assolutamente, passa attraverso le mie grinfie. Buongiorno a tutti. Allora, si parla di ritenzione idrica spesso e forse a sproposito, chiamandola in causa anche quando forse non c'entra nulla o c'entra poco, dall'aumento di peso alla cellulite, dalle gambe gonfie alle occhiaie. Ma guarda, direi, perché non parliamo anche di muscoli che fanno male, di artrite, di emicrania, cioè ce ne sono una serie di elementi che sono giustificati dal fatto che l'organismo trattenga più liquidi, quindi ce n'è. Allora, vogliamo aiutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a capire se hanno un problema di ritenzione idrica? Lei, per verificarlo, cosa guarda e cosa chiede ai suoi pazienti? Ci faccia fare una sorta di anamnesi indiretta, partendo dai segnali che una persona può direttamente osservare su se stessa. Intanto ci sono proprio un problema di osservazione. Vedo le persone che entrano in studio e spessissimo i sottocchi gonfi le vedi in persone che sono magari magre, asciutte, secche, eppure con elementi di gonfiore. Vedo gli anelli, vedo le mani, io le chiamo scherzando le dita würstelino, sì. No? Nel senso che sono lievemente un po' paffutelle. Quindi guardiamo l'anello. Esatto, se... e quindi l'anello che non si muove. Poi le domande sono per me estremamente significative. La prima è: che cosa mangia al mattino? E su una domanda di cosa mangia al mattino scopro che le persone a volte saltano la prima colazione. Allora quella genera già di per sé un fenomeno infiammatorio. Oppure che in realtà, anche se credono di fare una colazione dolce, mangiano fette biscottate spalmate di miele più la briochina più e quelli sono tutti cibi che, nonostante tutto, anche se dolci, sono dei forti contenitori di sale. Quindi ci sono domande poi anche semplici: se le calze lasciano l'impronta. E lo vedi, si vede, sono degli elementi che sono chiarissimi. E altri, tipo se uno si alza di notte a far pipì, che è una domanda fondamentale, perché anche persone sane che in realtà quando stanno in piedi l'acqua scende e va giù, no? No, scende giù, nelle parti basse, diciamo. Quando uno si ridistende durante la notte, riposiziona allo stesso livello, il cuore funziona meglio, riassorbe e aumenta anche l'emissione idrica. 800 24 00 24, partiamo quindi dalle occhiaie, scendiamo, le dita un po' gonfie, soprattutto se portate l'anello, vedete che fate fatica a sfilarlo, avete le dita un po' a brustellino. Scendiamo ulteriormente, il segno delle calze. Sì, assolutamente, proprio questa cosa per cui restano le tracce. E una cosa che spesso faccio ai miei pazienti, maschi e femmine, è quella di schiacciare sulla tibia. Di solito la tibia è una zona dove secco, dove uno prende un colpo, fa un male caino, e quindi no, perché non c'è niente. Certo. Invece in realtà schiacci e restano anche i soggetti giovani giovani un po' i buchetti, no? E uno dice, ma perché a 25 anni, a 40 anni devi avere lasciato? Perché l'organismo sta rispondendo all'infiammazione che è presente buttando liquidi per diluire in un certo senso la concentrazione di sostanze infiammatorie. Ed ecco che lì dobbiamo ragionarci. Teniamo presente che la ritenzione idrica può raramente anche essere un segno cardiologico, può essere, cioè ci sono dei segnali che sono più importanti, ma diciamo che il 99% delle situazioni sono quelle legate alla quotidianità e che possono essere affrontate con dei semplici cambi nutrizionali. Quindi assolutamente, 800 24 00 24, noi abbiamo proprio parlato di muscoli, ma lei mi ha messo anche il dolore muscolare che può essere un segno. Ma allora cerchiamo di capire bene, dottor Speciani, perché si trattengono i liquidi? Lei in parte l'ha anticipato. Perché si beve poco? Si mangia troppo salato? No, fondamentalmente diciamo che ci sono alcune condizioni in cui si trattengono i liquidi, come ho accennato prima, che sono abbastanza rare, il rene che non funziona piuttosto che una patologia cardiaca, ma sono condizioni che nel complesso sono molto rare, è vero che vanno tenute presenti, certo. Quindi non stiamo banalizzando questo problema. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di meccanismi difensivi, cioè di situazioni in cui l'organismo ha tossine, sostanze infiammanti, sostanze tossiche, cioè una serie di elementi nell'organismo, e l'acqua serve per diluire. Ecco quindi che uno butta effettivamente un po' di liquido a diluire queste concentrazioni. Poi devo dire, c'è un bellissimo lavoro, mi piace dirlo, perché la gente dice: perché si beve poco? Perché non ci sono i distributori d'acqua. Sembra una stupidaggine, ma hanno visto in una scuola tedesca, ad esempio in un gruppo di scuole tedesche, che mettendo fontanelle e aumentando riduce drammaticamente l'utilizzo di bevande gasate e dolcificate, cambia la modalità, i ragazzi sono più asciutti, più tonici e perdono anche del peso, perché bevono acqua. Sai, i punti dove c'è il desiderio d'acqua sono molto vicini a quelli in cui c'è il desiderio della fame. Allora, se uno impara a bere, spesso e volentieri, anziché mettersi a mangiare crackerini, biscottini e stupidaggini, certo, beve, risolve un problema, fa più pipì, rimane più sgonfio e rimane anche più tonico. Specie in questa stagione, speriamo, speriamo arrivi il caldo, comunque siamo facilitati a bere un pochino di più. Ma non siamo in inverno? Famosi... No, sembra. Milano sembra novembre. Dottor Speciani, apriamo una breve parentesi sull'acqua. I famosi 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno, ci sono acque più indicate di altre per facilitare la diuresi, l'eliminazione o contrastare la ritenzione idrica? Diciamo, o tutto quello che beviamo? Tendenzialmente le acque oligominerali, che sono, senza arrivare alle singole particelle di sodio, di calcio sparse in giro, però diciamo che le acque oligominerali sono tutte facilitanti la diuresi, e soprattutto c'è un problema legato alla tempistica. Ad esempio, una persona che abbia un po' di difficoltà, senza inventarsi strane terapie, il fatto di svegliarsi e di bere una buona tazzona d'acqua, cioè quasi mezzo litro d'acqua, una bottiglietta intera di acqua, è estremamente positivo e è un elemento che stimola decisamente la diuresi in qualsiasi persona. Lei ha detto tra i segnali: se vi alzate di notte a fare la pipì. Ci sono però, noi eliminiamo i liquidi con le urine, con il sudore. Verrebbe invece da pensare che le persone che urinano poco siano potenzialmente più a rischio di ritenzione. Ma sì e no, perché qui è proprio una diversità. Noi ragioniamo sul fatto che, pensiamo ai cagnolini. Sì. I cagnolini, quando fanno con la lingua fuori, in realtà stanno buttando via liquidi, cioè sì, è il loro meccanismo che hanno per eliminare acqua dall'organismo. Quindi ognuno di noi ha, per fortuna, non solo le reni e quindi la pipì che viene fatta, ma anche l'acqua che è contenuta nelle feci piuttosto che la respirazione, per ridurre, e la pelle. Poi poi un elemento sulla pelle che è legato al caldo, che ne parliamo tra poco. Michelangelo ci chiama da Milano. 800 24 00 24, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter, riascoltare anche la puntata e andare a vedervi il Daily Lab, dove, sai che ho fatto dei video, mi ha ammazzato Tite Togni, mi ha fatto fare delle posizioni delle asana. Fantastico. Io non mi muovo più, comunque sto continuando, spero che anche le amiche continuino con me. Michelangelo, buongiorno. Buongiorno, confermo che a Milano è quasi novembre. Vero, guardi, a me verrebbe voglia di una polentina. Cosa farà il prossimo Natale? Dove va in vacanza? No, è incredibile, guardi, è una roba incredibile. No, molto brevemente, io ho 44 anni, cammino abbastanza, diciamo dallo studio a casa sono circa 3 chilometri, non dico che lo faccio regolarmente, ma quasi. Allora, io ho la tendenza, sono un po' il sovrappeso, ammetto, e ho la tendenza ogni tanto, e mi capita in questi periodi, di avere dei crampi, non crampi, come dire, degli indurimenti, ecco meglio, degli indurimenti ai polpacci, che non sono, per carità, non sono, non fanno male, ma sono... Però... fastidiosi. Allora, volevo, dato che la puntata è molto interessante come sempre, volevo capire se era magari una situazione che dovuta anche al fatto che io sì, non è che beva tantissimo, però bevo, però nel senso bevo acqua, non bevo alcolici. E allora cosa mi cosa certo, se anche perché io ho detto la vostra relazione con la ritenzione idrica cambierà, è destinata a cambiare, dobbiamo farla cambiare, dottor Speciali. Assolutamente, quindi Michelangelo, intanto ha 44 anni e fa un minimo di attività sportiva, è giustamente sovrappeso, quindi si ragiona su che cosa stia mangiando. La prima domanda che io farei a Michelangelo è effettivamente se sta usando cibi molto salati, cosa che è frequente, che ripeto, noi non consideriamo che sono salati, pane, cracker, grissini, formaggio, la pizza, cioè questi prodotti sono quelli effettivamente salati, non è il sale che uno aggiunge, usualmente io amo dire e spiegare che una bistecca molto salata contiene meno sale di un panino col formaggio, no? Per cui la gente pensa sempre che il sale sia quello aggiunto, in realtà è il sale presente. Magari in una condizione del genere, questo eccesso salino che ha Michelangelo potrebbe essere risolto scegliendo dei cibi sostitutivi. E potrebbe essere la condizione in genere, considerato il tipo di età e il tipo di attività, la cosa più facile. Ritenzione idrica, dottor Speciani, rimanda all'acqua. Lei nel suo libro e anche in apertura di puntata, il suo libro è Come una pentola a pressione, un libro bellissimo di cui oggi abbiamo due copie tra l'altro. Dicevo che lei nel suo libro associa invece la ritenzione idrica ad una parola che richiama un elemento opposto all'acqua, il fuoco. Infatti la ritenzione idrica è in un certo senso una conseguenza dell'infiammazione. Ci spiega però la relazione tra questi due elementi, acqua e fuoco, che sembrano inconciliabili? Credo che sia proprio quello che abbiamo segnalato prima, cioè la possibilità per ogni organismo di mettere in moto dei meccanismi difensivi, che è fondamentale capire. L'esempio che faccio alla gente quando arriva in studio e mi racconta un po' di patologie, di disturbi, di condizioni varie è: ma se a casa tua avessi un tappetino che sta bruciacchiando, cosa ci verseresti sopra? E la gente dice acqua. Poi in realtà qualche... diranno è strano, però, è strano questo dottore, io vado lì perché ho la pancia gonfia, voglio dimagrire, mi fa queste domande. Allora, a quel punto, solo a quel punto, quando l'ho capito, gli dico: l'organismo funziona esattamente in questo modo, cioè cerca di fronte a qualche cosa che rappresenta per lui un segnale di pericolo, quindi una preoccupazione, ed è l'infiammazione in quanto tale, tende a buttare liquidi per diluire la concentrazione delle sostanze infiammatorie presenti. Allora, a quel punto, dopo che gli ho spiegato questa cosa, verificano, gli faccio vedere che hanno magari la tibia davanti all'osso della gamba, che quindi rimane più gonfio, che ci sono gli anelli che non passano, che ci sono i segni delle calze o del bordo sulle cosce piuttosto che altrove, vediamo. E allora a quel punto una parola che è ritenzione idrica, che in realtà è gira per come dire, come una specie di spauracchio, improvvisamente diventa concretizzato nella propria realtà. Le persone capiscono cosa succede e quando gli spiego cosa si può fare diventa un'azione che diventa una self-confidence, di nuovo la possibilità di prendere in mano le redini della propria storia per migliorare. Questo ci piace molto. Alice, buongiorno, ci chiama da Teramo. Sì, certo, sì, sono io, ecco, ho il piacere finalmente di sentire dal vivo il dottor Speciani, perché ho molta stima. Ciao Alice! Confronti. E soprattutto, appunto, mi piace molto il sito Erosalus, che ho scoperto solo da un annetto, ecco, è molto esaustivo e ci dà delle dritte, al di là poi di quello che può fare un medico di base, che ahimè per le allergie non sempre ci trova una soluzione. Alice, ma sai che scrivo, allora, scrivo anche qui su Radio 24, bravo, che è bravo. Fondamentale. Allora Alice, prende due piccioni con una fava. Alice, venga la domanda però. Dunque, ecco, un consiglio per le persone come me che hanno superato i 40 anni, e hanno una ritenzione idrica che va dal bacino al ginocchio, quindi nelle gambe, nell'interno gamba. Sì. E non altrove, perché non ho problemi di mani gonfie né di viso gonfio. Si concentra però, lì, ecco, Alice. Sì, io faccio bicicletta, mi muovo. E sì. ho da poco imparato ad usare un sale himalayano, quello rosa, e però non so se fa meno ritenzione, mi doveva dire il dottore oggi. Allora, Alice, ecco a lei il dottor Speciani, interno coscia. È un bel tema. Ad esempio, sappiamo che ci sono dei fitoterapici che poi magari affrontiamo. Credo che dopo sentiamo un esperto da questo punto di vista. Perfetto. Assolutamente. Mentre per il sale, il sale himalayano, il sale di Cervia, il sale di Kathmandu, sono buonissimi, ma sono sempre sale alla fine. Alcuni hanno un po' di oligoelementi in più e quindi migliorano, anziché però, essere dei vecchi. Però sono, alla fine poi sono sale lo stesso, quindi stiamo attenti. L'ha anticipato il dottor Speciani, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Ha visto che sono diventata quasi brava, non mi impapero più con la sua qualifica. Bravissima, veramente. Bene. Allora, dottor Temporin, se io le dico acqua, che è proprio l'immagine che noi abbiamo quando parliamo di ritenzione idrica, lei che cosa mi dice? Beh, quando lei mi dice acqua, io penso immediatamente ad un rimedio fitoterapico molto utile per questo problema, che si chiama betulla, e soprattutto la linfa di betulla. Dico la linfa di betulla perché ovviamente la betulla ha proprietà drenanti e i suoi estratti possono essere utilizzati in vario modo, ma la linfa, che deriva proprio dall'incisione delle betulle e quindi la fuoriuscita di questo liquido, ha delle proprietà spiccatamente più drenanti, rimineralizzanti, quindi utili per contrastare la ritenzione idrica. La linfa di betulla è un'acqua ovviamente trasparente, va consumata un bel bicchiere al mattino, tutte le mattine a digiuno per almeno un mese, e questa ci permette di drenare, quindi di eliminare questi liquidi in eccesso. Ovviamente la natura pensa a tutto, quindi ha proprietà anche rimineralizzanti, quindi di conseguenza non perdiamo minerali utili come possono essere causati eventualmente da un utilizzo scorretto invece di diuretici. Dottor Temporin, allora ci siamo segnati, linfa di betulla la consigliamo alle amiche all'ascolto in modo particolare, ma magari anche gli uomini possono avvantaggiarsi, sì, di questo di questa linfa, proprio è bello chiamarla così. Ma dottor Temporin, se io invece dicessi fuoco, stiamo parlando di infiammazione? Allora, giustamente, come diceva anche il collega, l'infiammazione è un processo di cui il nostro corpo cerca di difendersi in vario modo. Uno dei modi è proprio anche la ritenzione idrica. Ovviamente l'infiammazione può creare dei sintomi che non sono ancora sintomi patologici, come l'affaticamento, un riposo ovviamente che non è ristoratore, una stanchezza durante il giorno, quindi la fatica ad arrivare a sera, e anche la stessa ritenzione idrica. Ecco che allora io consiglierei un buon decotto, buono da un punto di vista terapeutico, un po' meno magari per il palato, che in questa stagione, prendendolo per 3-4 settimane, tutti i giorni 3-4 tazze, può essere utile. Adesso vi do la ricetta. Pronti, dottor Speciani, pronti anche voi, ma Laura Vanossi è prontissima, per cui la metteremo anche sul nostro sito. Vada, dottor Temporin. Allora, potete andare dal vostro erborista di fiducia e fare assemblare dei peduncoli di ciliegio, dell'ortica e del tarassaco, in questo caso il tarassaco alla radice, in parti uguali. Ovviamente questo può essere un ottimo decotto che è drenante, detossinante, perché agisce anche a livello epatico, quindi il nostro fegato viene depurato, e contenendo anche l'ortica, che ha uno spiccato effetto antinfiammatorio e anche rimineralizzante. Non è un decotto buono, come dicevo, al palato, perché ha dei principi amari. Eventualmente può essere aromatizzato utilizzando del succo di mela, oppure mettendo all'interno degli estratti di frutti di bosco. Fantastico, grazie dottor Temporin. Abbiamo preso nota, quindi linfa di betulla per la ritenzione idrica da un lato, invece per così spegnere, buttare un po' di acqua sul fuoco dell'infiammazione, lavoriamo su un decotto che non è buono al sapore, ma fa molto bene perché ha effetto drenante, detossinante e antinfiammatorio. Dottor Temporino, capito? Benissimo, va bene. Nicoletta. Ok. Essere e benessere. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Quando il fuoco, o meglio l'infiammazione, manda in fumo il nostro benessere. Questa è la puntata di oggi, il tema della puntata di oggi, 800240024. Mi sta confondendo Filippa Oreggi. Se volete intervenire potete come sempre seguirci anche su Facebook e su Twitter. Dottor Speciani, quando l'infiammazione ci rovina il nostro benessere, la nostra salute. Lei usa l'immagine della pentola a pressione e infatti ha scritto un libro, il suo ultimo libro è proprio Come una pentola a pressione. Questa è un'immagine che spiega bene il concetto, perché il nostro corpo manda dei segnali, dei fischi, proprio come fa la pentola a pressione: dolorini, gonfiori, difficoltà a perdere peso, gli occhi gonfi, gli anelli che diventano stretti, ci sta dicendo che si sta surriscaldando, ma noi chiudiamo tendenzialmente, no? Chiudiamo la valvola di sfogo e andiamo avanti, poi se ne apre un'altra e la chiudiamo, intanto la prima sta mollando, ma se ne apre una terza, insomma, forse la cosa migliore sarebbe abbassare il fuoco. Che dice? Ho raccontato bene? Perfetta, perfetta, devo dire che la competenza... L'ho imparata, e batti. Quali sono gli alimenti allora che... tengono acceso questo fuoco? Quali quelli che infiammano di più? Direi che capiamo esattamente questa pentola a pressione proprio perché un po' nell'organismo umano c'è questa tendenza a chiudere, come se fossero sintomaticamente da trattare queste singole valvole. È ovvio che dentro il concetto fondamentale da capire è che se io ne chiudo una che sta dando un segnale, e non dipende dal fatto che, per dire, c'è un fastidio dell'articolazione che fa male oppure del piede che si gonfia, ma che c'è sotto un aumento del livello di infiammazione che sta aumentando, è ovvio che dopo un po', se io chiudo quella valvola, se ne aprirà un'altra, certo, in compensazione. Allora, questa cosa vale anche per patologie anche importanti e quindi di un certo rilievo. Quello che si sta scoprendo adesso è che questa cosa è profondamente legata al tipo di alimentazione, cioè una volta c'era il vecchio detto qualche nostrozza ingrassa, no? Sì. Cioè, piuttosto che, in realtà stiamo scoprendo dei cibi, delle valenze potentissime anche nella modulazione della regolazione dell'infiammazione e di segnali ormonali interni. Allora, che cosa avviene? Avviene che normalmente in una popolazione come quella mitteleuropea, quindi parliamo di Italia, i cibi che danno maggiormente reattività sono quelli più classici, quindi abbiamo i lieviti, le sostanze fermentate, il frumento, abbiamo il latte, i latticini. E qui, anzi, mi viene in mente che potremmo fare, visto che i libri ne ho portati due, tra l'altro questo libro l'ho scritto insieme al mio assistente, il dottor Piuri, quindi è stato un lavoro in a quattro mani, bellissimo, ma un test interessante, cioè quello che voglio che passi è che non c'è un cibo cattivo. Bravo, è che è l'utilizzazione, sì, cioè ci sono dei cibi perfidi, fatti male, ma mediamente quello che abbiamo imparato nel corso dell'evoluzione sono cibi che vanno bene, che fanno parte della nostra cultura, che quindi sono importanti. Allora, però è vero che se li mangiamo costantemente, quindi non mettiamo dentro degli spazi di respiro, o ne mangiamo troppo, ecco che l'organismo inizia a dare dei segnali di reattività. Allora qui faccio un test e dico, posto che mi sono già sbilanciato, perché ho già detto ad esempio in Europa, Mitteleuropa, qual è il cibo, qual è il cereale più fastidioso, mediamente, che può generare più fastidio, la domanda è: e in Cina, cioè in Asia, e in America Latina? Allora la domanda è: quali possono essere i cereali che danno più fastidio, che possono generare reattività infiammatoria in queste tre aree del mondo? Che abbiamo detto Mitteleuropa, l'ho già detto, quindi vi aiuto. Una l'avete già sentito, in America del Sud e nell'est del mondo, quindi in Asia tendenzialmente. 800240024, abbiamo due libri. No, uno è per te. Un libro, poi uno. Ecco, un libro al primo ascoltatore che chiamerà dandoci la risposta giusta. Abbiamo Francesco che ci chiama da Milano e Michela che ci chiamano che ci chiama da Roma. Francesco, buongiorno e benvenuto. Eccomi qua. Buongiorno. Eccolo. Innanzitutto complimenti veramente per la trasmissione, perché fate sempre degli argomenti, so che è una cosa che lo dicono tutti, ma interessante. No, ma a noi ci piace molto. Sì, questa mi riguarda personalmente, perché io praticamente bevo, ma è tutto concentrato il mio bere. Io riesco a bere anche un litro e mezzo, anche quasi due di acqua, ma è tutto concentrato quando pranzo. Mi viene una sete impressionante. Sì. Dopo la sera posso anche sorseggiare un bicchierino, la mattina uno o due bicchieri, poi basta. Cioè adesso mi sono chiesto, magari era un qualcosa che... Perché? Grazie Francesco, bella domanda. Dottor Speciani, perché Francesco sente questo bisogno di bere solo durante il pasto? Beh, ad esempio, probabilmente lui ha una forma di reattività infiammatoria da cibo non potente, con un basso livello di infiammazione, quindi il suo organismo è abituato, quando percepisce, e noi abbiamo delle ottime, dalle papille gustative in giù, sappiamo che cosa stiamo mangiando, che ha bisogno di acqua per diluire. Devo dire, tra l'altro, questo mi dà l'occasione per spiegare che non è una controindicazione bere mentre si mangia. Noi veniamo dal Paleolitico, dove abbiamo avuto a disposizione qualcosa da bere, qualcosa da mangiare in condizioni decisamente le più varie. Per cui è vero che alcune persone in condizioni di malattia potrebbero cercare di non diluire i succhi gastrici piuttosto che altro, però siamo abituati e capaci, se funzioniamo bene, di usare tutto quello che abbiamo con serenità. Quindi bere anche mentre si mangia in maniera adeguata, non 9 litri chiaramente, ma come ci si può controllare, invece è un dato potenzialmente positivo. Quindi potrebbe essere che Francesco e possa avere magari un'azione di controllo e non lo veda negativo. Piuttosto, se però vuole cercare di modificare questa cosa, provi a fare dei cambi, cioè inserire 1-2 giorni, come abbiamo detto prima, di filtro sui cibi abitudinari, e questo già è spesso sufficiente in persone che non hanno ancora sviluppato delle reattività potenti per riportare in equilibrio l'organismo. Quindi i cibi, gli alimenti che utilizziamo di più e con maggiore frequenza, esatto, Proviamo a eliminarli magari nel corso della settimana per un paio di giorni, non consecutivi. No, faccio un esempio semplice. Grazie. Cioè, classicamente in Italia noi mangiamo pane, cracker, grissini, biscotti, formaggi quotidianamente, quindi abbiamo dentro sia il frumento che il lievito. Ecco, una logica che possa pensare, ad esempio, di sostituire, di prendere al posto del pane delle patate bollite, no? Cioè, piuttosto che di non mangiare per un giorno alla settimana i formaggi insieme, di sostituire con delle sostanze, magari in quel caso viene bene di utilizzare del pesce, che ci aiuta anche a capire che poi gli omega 3 possono fare bene per aiutarci a controllare questo quadro, e quindi di mettere in moto un meccanismo di controllo al posto di mangiarci un dolcetto che contiene ancora frumenti, lieviti e latte, un frutto. Ecco che allora una giornata diventa un certo senso anche di ripurificazione, ma senza togliersi le cose buone che si possono mangiare lo stesso. Un giorno, chiamiamolo il giovedì di magro, no? Il giovedì di magro. Michela da Roma, buongiorno, benvenuta. Pronto, buongiorno. Eccola. Io volevo fare una domanda appunto sulla mia colazione di cui avevo prima sentito accennare. Ecco. Premetto che io svolgo attività fisica abbastanza regolare ed intensa e non mangio formaggi né salumi affettati, semplicemente perché non mi piacciono. Mangio tanta frutta e a colazione appunto mangio 3 o 4 frutti e un paio, 3 fette biscottate, a volte con la marmellata, ma anche con una tazza di tè verde. Però ho evidente ritenzione idrica, soprattutto nella parte addominale, cosce, bene o male lì. Non ho fatto il test della tibia perché stavo guidando, ma il sospetto meno male. Il sospetto è che si affossi. E l'anello? Esatto. E quindi volevo capire qual è l'infiammazione a cui questa ritenzione mia sta rispondendo. Allora, Michela, rimanga con noi, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Michele, per l'appunto, stava guidando, poi quando smetterà di guidare anche delle notizie utili, fa prove sulla tibia e ritorniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, dottor Speciani. Occupiamoci di Michele. Quindi apriamo una parentesi sulla cellulite. Assolutamente. Così diamo anche un'indicazione proprio per Michela. Intanto è vero che parte della componente di trattenimento di liquidi nella cellulite dipende da una caratteristica di un profilo individuale. Sì. Questo per cui non possiamo cercare il cibo in assoluto che faccia bene o che faccia male. Certo, sappiamo che verdure, frutta, pesce, semioleosi sono estremamente utili, ma ognuno poi ha la sua, e questo è un dato importante da spiegarci. Nel caso specifico di Michela, ad esempio, perché quindi possiamo dare un aiuto, perché a livello statistico la cosa importante è che lei ha detto: ma io ho già tolto salumi e formaggi dalla mia alimentazione. Allora, gli altri cibi ad alto contenuto salino sono proprio le fette biscottate che sta mangiando. Le basterebbe provare a sostituire, visto che mangia abbondante frutta, al mattino effettivamente con dei cereali semplici, quindi non fermentati e fatti a pane, ma i semi, i chicchi di cereali fatti bolliti o preparati o aggiunti dentro ad un latte vegetale o normale che sia, per vedere migliorare il suo quadro. Fantastico, quindi piccoli cambiamenti anche di gusto. Non dobbiamo, un ascoltatore ci scrive, Sal, forse da Bergamo, basta con questa gente che ci toglie il gusto del cibo. Ma quando mai? Ci vogliono imporre una vita insipida. Noi vogliamo aggiungere sapore e varietà. Chiusa la parentesi, in linea con noi abbiamo Andrea Ribaldone, tornato a trovarci, Executive Chef Italy Tokyo. Andrea, ciao. Ciao a tutti, ciao Nico. Noi abbiamo parlato di infiammazione, il dottor Speciani ha scritto un bellissimo libro, Come una pentola a pressione. Con te vorrei proprio parlare di pentola a pressione, che è un valido aiuto in cucina, ma magari con qualche attenzione in più riusciamo a utilizzarla meglio e soprattutto a salvaguardare il valore nutrizionale di alcuni alimenti. Ecco, a proposito di gusto, la pentola a pressione cosa fa? Comprime i gusti, quindi ci aiuta a una cottura sicuramente più veloce, ma anche ad avere più gusto, quindi va benissimo anche rispetto a quello che diceva l'ascoltatore prima. La pentola a pressione va bene, soprattutto secondo me, io la uso ad esempio con i cereali, con i legumi, perché diminuisce i tempi di cottura. Un po' meno forse con le verdure, Nico, perché tende a fargli cambiare colore, a cuocerle troppo, non le possiamo controllare, e anche gli elementi nutrizionali delle verdure si perdono un po' di più con la pentola a pressione. Quindi cereali e legumi, sì, verdure diventano un po' moscette. Sì, vabbè. Esatto. No, e non ci piacciono anche al nostro ascoltatore. Eccezionale se volete con la carne, ad esempio per fare uno stufato con una carne di lunga cottura, penso a una guancia di manzo, ammettete tutto quello che vi piace e poi fate questa lunga cottura in pentola a pressione, i tempi diminuiranno, la carne rimarrà eccezionale. Senti Andrea, per chi non ha la pentola a pressione ma vuole comunque ottenere delle cotture che preservino i valori nutrizionali e soprattutto il sapore, che cosa suggerisci? Guarda, secondo me va benissimo come faceva una volta la nonna sul bordo della stufa, quindi a fiamma molto bassa possiamo in una pentola, l'importante anche lì è la pentola, trovare una pentola che sia tipo o di rame o una pentola di acciaio ma col fondo molto spesso, in modo che il calore venga distribuito in maniera uniforme, un calore dolce, e fare andare piano piano la nostra lunga cottura, qualsiasi essa sia. Grazie ad Andrea Ribaldone, che speriamo di avere presto qua anche con alcune ricettine per noi, ma ci stiamo pensando, vero Andrea? Va bene, sicuramente sì, grazie a tutti, grazie. Ciao Nicoletta, grazie. Buona giornata. Abbiamo Chiara che ci chiama da Treviso, dottor Speciani, che forse ha la risposta corretta e quindi forse potrà ricevere a casa come una pentola a pressione. Chiara, buongiorno. Eccomi, buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato. Allora, spero di avere la risposta. Allora, per l'America Latina il mais, per l'Europa il frumento, per l'Asia il riso. E vai, grande! Grazie! Vai. Allora, quindi varietà. Cambiamo, varietà, cioè noi tendiamo a crearci un problema se continuiamo a mangiare le stesse cose, per cui statisticamente questi sono i maggiori fastidi. Varietà, imparare anche a mangiare qualcosa di diverso e lasciare quegli spazi che una volta la natura ci lasciava, ci obbligava a trovare. Quindi varietà nei cereali, varietà nelle carni, nei legumi, dottor Speciani, in chiusura di questa puntata abbiamo ancora un minutino. Riusciamo a in molti molti ascoltatori me lo chiedono, a capire se ci sono delle vitamine che ci possono aiutare a spegnere l'infiammazione e quindi anche a ridurre la ritenzione idrica, proprio un flash. Assolutamente sì, ho accennato già prima, ad esempio gli oli di pesce, cioè gli omega 3 hanno una funzione di tipo di controllo dell'infiammazione, possono essere sia quelli vegetali presenti nell'olio di perilla, che infatti è una pianta che viene usata in Giappone per dire, piuttosto che non quelli che si trovano negli oli di pesce che vengono utilizzati. Più abbiamo delle sostanze vegetali diverse, ma se torniamo in termini di vitamine, ecco che ad esempio la vitamina D3 presente in alcuni grassi che spesso togliamo di torno, quindi negli oli eccetera, tutto quanto ha delle azioni sicuramente positive di controllo e ci aiuta. E chi riduce l'infiammazione, certo, sta bene anche di testa, di cuore, tutto, insomma la vita diventa più sorridente. Intanto vi ricordo che potete come sempre scaricare la nostra puntata, seguirci sulla nostra pagina Facebook, leggere i post del Daily Lab a cui partecipa anche naturalmente il dottor Speciani. Se volete mettervi in contatto con noi, la posta di Essere Benessere è sempre a vostra disposizione, esserebenessere@radio24.it. per oggi è tutto, non resta che augurarvi buon weekend anche al dottor Speciani, ringraziandolo di essere venuto con noi, a Filippa Aureggi che è in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi che è in redazione. Per oggi è davvero tutto, buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.